Dopo gli ospiti, i padroni di casa, la rete precaria è anche un riferimento agli assenti, perché l'invito a partecipare a questa tavola rotonda era anche per l'associazione degli editori che è stata invitata ma ha declinato, ha scritto qualche riga dicendo che l'associazione non può entrare in nessun modo dentro forme organizzative della produzione che sono proprie di ogni singola realtà imprenditoriale. Riteniamo quindi di non poter avere nessun titolo per partecipare in modo adeguato al vostro invito. Questa è la mail che hanno mandato. Abbiamo ovviamente anche la replica che loro non possono sentire. Francesca, tu la leggi? La replica viene sempre da un membro di RerePre, il quale ha scritto, cerco di tagliare un attimo, sento l'esigenza di condividere una riflessione sul motivo del vostro arrivo. Allora, ho la sensazione che in questo modo l'AIE si lavi pilatescamente le mani di fronte a una serie di problematiche che riguardano in primo luogo i suoi associati, i quali gestiscono aziende fatte di persone. A questo punto diventa inevitabile il confronto con altri attori, o almeno così dovrebbe essere. Con questa risposta è come se mi dicesse che il compito dell'AIA è di pura rappresentanza e in questo modo si svuota di senso e di valore un'istituzione che invece dovrebbe avere uno scopo sociale e culturale di alto profilo. Dunque, questa è la risposta che ha letto Francesca Bovone e insieme a lei anche Simona Bagalà. A voi tocca iniziare e proseguire quello che abbiamo sentito, cioè i racconti di vita precaria dal punto di vista dei redattori. Alcuni di questi racconti sono anche sul vostro sito, quindi poi chi vuole sbizzarrirsi a leggerseli può andare anche in questo modo. Vi chiederei appunto di raccontare la condizione di lavoro e di vita precaria dei redattori, secondo la vostra esperienza. Sì. Allora, prima di tutto io mi collego all'ultimo racconto che ha letto Ofelia perché, ma questo è vero, nei corridoi della casa editrice della casa editrice dove lavoro la maggior parte del mio tempo, la domanda che si sente di più è tu quando scadi? Ma cioè in questi termini proprio, cioè quando ti scade il contratto sarebbe, però sembra davvero di parlare con uno yogurt. Allora, io sono redattrice da 7 anni. Ho lavorato per case editrici grandi e piccole, per diversi studi editoriali, insomma per realtà molto diverse, realtà diverse nelle quali però le esperienze sono sempre uguali, cioè quello che si vede è sempre la stessa cosa, ossia contratti a progetto o a programma, come li vogliano chiamare, quando va bene, perché sennò sono ritenute con notuline ridicole, compensi veramente, veramente da fame, ma veramente. Contratti che vengono rinnovati ogni 4, 6, quando va bene, ogni 10, 12 mesi, ma insomma non di più. Rinnovati, ma non, e anche questa è una regola, non in modo automatico. Cioè quello che succede è che hanno la necessità di interrompere il contratto, il rapporto lavorativo, perché altrimenti poi scatta l'obbligo di assunzione. Per cui cosa succede? O lasciano a casa la gente per un mese, come se uno potesse stare un mese senza percepire uno stipendio, ok? Però lo fanno e tu non hai scelta. Oppure si affidano alle agenzie interinali, ti fanno un contratto di un mese e mezzo, 2 mesi, quello che è, tramite un'agenzia interinale, dopodiché riparte il contratto a progetto con la casa editrice. E questa è una vergogna. L'uso delle agenzie interinali ultimamente è diventato molto di moda anche per le sostituzioni di maternità, perché è un altro modo che hanno per poi, appunto, cioè dopo una sostituzione di maternità, insomma, se devono assumere qualcuno, sono costretti a assumere te più o meno. L'altra cosa, proprio leitmotiv assoluto, è che cercano sempre di costringere le persone a comportarsi lavorativamente come dipendenti, per cui una persona che ha un contratto a progetto ha tutti i doveri di un dipendente e ovviamente nessuno dei suoi diritti, ma nessuno. Ti mettono sui contratti, cioè in teoria quello che dovresti fare, cioè la definizione del progetto sul quale dovresti lavorare, ti ritrovi a fare redazione, coordinamento redazionale, a partecipare alle riunioni di produzione, a fare il piano editoriale dell'azienda, ok? Ti chiedono il piano ferie. E qui ovviamente poi sta al singolo rifiutarsi di fare tutta una serie di cose, però la verità è che siamo talmente ricattabili che molte volte alla fine, insomma, ci ritroviamo anche a fare cose che fanno schifo anche a noi, però se no si perde il lavoro. Ora, Oltretutto, ho parlato di rinnovo di contratti, di questa insomma, di questa pratica di sospenderli comunque per un po' di tempo, ma un'altra cosa simpaticissima che fanno, anche questa è molto di moda da qualche anno, è che non ti dicono niente su quello che saranno le tue sorti fino a una settimana, quando va bene, dalla scadenza del contratto, a volte anche fino a 2 giorni prima, a volte anche una settimana dopo la scadenza del contratto. Ma questo dopo averti trattato per tutti i mesi precedenti, dando per scontato che tu avresti lavorato a una serie di progetti che magari prevedevano la pubblicazione, non so, nel 2015, per cui uno comunque si aspetta di continuare a lavorare con loro e non si cerca un altro lavoro, magari stupidamente, però insomma è anche bello ogni tanto cercare di avere un po' di fiducia nella gente. Finisco qua perché sennò poi comunque questa è la situazione ovunque, nelle case editrici piccole. Ovviamente non voglio generalizzare, perché ci sono dei posti dove sicuramente si sta bene, ci mancherebbe. Magari io sono stata particolarmente sfortunata, non lo so, secondo me no, cioè secondo me la situazione è questa, è così nei service editoriali, negli studi editoriali, è così nelle grandi case editrici e nelle piccole case editrici. E va bene, adesso ti passo la parola, se no non finisco più. Allora, io sono Simona, siamo state io e Francesca colleghe insieme, quindi potrei dire più o meno le stesse cose per i primi 2 anni, più o meno insieme, quindi. Solo che lei, molto più furba di me, ha capito com'era l'area e è andata via. Io invece sono rimasta in questa azienda per 5 anni, 5 anni con contratto a progetto. E già qua si capisce che la cosa tanto carina non è. Questi contratti a progetto, rinnovato di anno in anno, dal 1 gennaio scadenza il 31 di dicembre, con un progetto che non seguiva assolutamente queste tempistiche, quindi il progetto era sfalsato. Diciamo che cominciava a aprile-maggio, quindi aveva questa durata annuale, ma il contratto giustamente era diverso. E alla fine, ultimo contratto, sono stata chiamata perché la convocazione era tipo Grande Fratello, come andava e va di moda purtroppo. Siamo stati chiamati tutti noi redattori dalla persona che si occupava di noi, giusto per dirla così, singolarmente. Questo sinceramente con tanto anticipo rispetto al solito, perché appunto ci rinnovavano il contratto, ci facevano sapere che ci rinnovavano il contratto alla scadenza una settimana prima, e invece quell'ultima volta ci chiamano un bel po' prima e dice così en passant: ah, questa volta non vi possiamo fare un contratto a progetto. E la capisci che si sta aprendo un mondo brutto. Gli facciamo un altro tipo di contratto, cioè il contratto di cessione di diritti d'autore, che non c'entrava niente con l'opera in questione, ma proprio niente. Alla mia faccia sbalordita, anche perché non sapevo cosa fosse, ma no, perché sennò dovremmo assumervi, cioè con una faccia così, cioè ma mi ti rendi conto cosa mi chiedi, sennò dovrei assumerti, mica sono scema. E questo qua è stato l'ultimo anno in questa casa editrice, 5 anni, dopodiché arrivano i tagli aziendali e pazienza, si va via. E da lì per me è cominciato un girovagare, perché era un ambiente abbastanza, diciamo, settoriale, quindi dovevo farmi le ossa anche in altri settori. Ho conosciuto uno studio editoriale, un paio di case editrici, tutte abbastanza rinomate, anche perché essendo a Milano e essendo l'editoria italiana concentrata praticamente tutta a Milano, alla fine è quello, anche perché se finisci a lavorare per uno studio editoriale, tu sai che lo studio editoriale lavora grazie a queste case editrici, cioè tutta questa esternalizzazione, tra virgolette, selvaggia. Io venivo per una casa editrice, venivo pagata dallo studio editoriale, però lavoravo per la casa editrice, e questo frammentare, questo disperdere i compiti, le responsabilità, i diritti non ce ne stanno, i doveri, è proprio un'idea di dispersione che si dà, e alla fine non ti rendi conto neanche cos'è che fai, per chi lo fai e alla fine perché. In questo momento diciamo che sono in un momento di pausa, nel senso, non so perché, ma la casa editrice con cui ho collaborato finora non mi sta dando particolarmente lavoro, quindi niente, ho tanto tempo per riflettere e ci pensi veramente tanto in questi momenti. Nel frattempo, appunto, come fai? Ti metti in ibernazione come lo yogurt, ma magari. e aspetti che squilli il telefono, che succeda qualcosa, e ti chiedi, ma quando andavo all'università, studiavo perché poi alla fine ci sarebbe stato un futuro migliore, quando poi ho fatto il master magari con un sacco di sacrifici personali, perché nel frattempo sai, hai anche una certa età se fai il master di solito, quindi ti secca un po' pesare sulla famiglia, cerchi di farcela un po' da solo, dici ma tutto questo sbattimento alla fine a cos'è che è servito? Cosa sto facendo della mia vita? Perché ti trovi a farti anche queste domande. Per un qualcosa, per inseguire un sogno, una passione, un lavoro, un qualcosa che alla fine ti permetta di vivere in ogni senso, oppure come a volte ce lo si fa passare anche come un hobby simpatico. Riflessioni di una, si può dire l'età, di una 36enne, quindi non proprio giovane.